Michele da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Antonio Garazzini. Dica. Io volevo riportare la cosa così, vista un po' da monte, sulla questione da monte, cioè della questione tecnologia o meno, per verificare questo. In fin dei conti, chi ha giocato a calcio dal campetto di periferia al prato più vellutato dei mondiali, sa che il calcio è fatto da un pallone, dagli 11 in campo e dall'uno o due o tre in più che sono quelli che fanno, tra virgolette, il lavoro sporco dell'arbitro o di chi giudica. O teniamo il calcio come un fattore umano, è uno sport che è fatto da un fattore umano, altrimenti il passaggio al chip, alla barriera laser, a tutto quello che potremmo pensare che la tecnologia ci può fornire, porterà tutto questo fuori. Ed è qui che mi piace moltissimo l'idea, può essere una provocazione, del calciatore pittore, perché la fossa non è altro che il palo e la traversa. Il pallone rimbalza, entra, esce o rimane dov'è o lo paro. Finito, è un fattore fisico, umano, che io ho visto perché ero il portiere, lei ha visto Carazzini perché era l'arbitro, chi sta ascoltando ha visto perché era l'ala destra. Chiuso. L'elettronica, prima o poi, come nell'auto che sto guidando, ci lascerà a piedi. Basta, grazie. Grazie, grazie a lei Michele. Beh, sentimentalmente sono con lei. Lo spirito deve rimanere questo. Il calcio è un gioco talmente. Quando sento parlare o leggo di rugby, di basket, di queste cose, con tutto rispetto, però io dico che il calcio è un gioco talmente più bello dal mio punto di vista, è talmente più universale, che gli interventi come il suo sono personalmente più graditi. Però io non lo condivido. Non lo condivido fino in fondo, perlomeno, nel senso che qualche limite va posto, e ripeto, nel 2010 il pallone che entra o non entra, insomma, almeno questo si deve sapere. Se da lì in avanti la penso, ripeto, per una volta nella mia vita la penso come Arrigo Sacchi, e cioè la tecnologia va usata solo in quello.